Questa sera affrontiamo la seconda parte del Credo che incomincia con le parole Credo in Gesù Cristo. Dicevamo l'altra volta che credere vuol dire camminare verso una persona che ci viene incontro, vuol dire abbracciare una persona, vuol dire di due diventare uno. Sant'Agostino aveva riassunto la fede con questa parola. La fede è entrare in Lui, ossia in Gesù Cristo. Entrare vuol dire entrare, diventare due sotto la stessa pelle, o meglio, una persona sola, come ci insegna Paolo nella lettera ai Galati. Ecco allora che dopo aver parlato brevissimamente del Padre onnipotente, creatore, ora parliamo dell'altra persona della Santissima Trinità, Gesù Cristo. Che cosa significa Gesù e che cosa significa Cristo? Gesù, Yehoshua, in lingua ebraica vuol dire Dio salva, Dio è salvatore. Noi potremmo tradurre il nome di Gesù con il nome di Salvatore. Dico solo una cosa, piccola piccola, ma che è di un'importanza sbalorditiva e spesso non ci si accorge, si fanno confusioni. Il nome per gli antichi designava la missione, lo scopo per cui era nato, era venuto a questo mondo una persona. È venuto il figlio di Dio, è nato come uomo da Maria Vergine e Dio dal cielo, il Padre, dice a Giuseppe, gli metterai in nome Gesù Salvatore, Dio Salvatore. Se Gesù è Salvatore, può condannare, può non salvare qualcuno? E la risposta è no, perché allora non sarebbe più Gesù, non sarebbe più Dio Salvatore. Dio non può dannarne neanche uno, se no verrebbe meno alla sua realtà, alla sua personalità. Andremo dannati per colpa nostra, ma non perché Dio danna qualcuno. Dio può solo salvare, punto e basta. E questa è una verità che ci deve fare estremamente contenti. Dio è venuto solo per salvare, lo dicono i Vangeli. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio come salvatore perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E Gesù dice, il Padre mi ha mandato e vuole che io non perda nulla di quanto egli mi ha messo nelle mani. Volontà del figlio, volontà del padre, salvare tutti. San Paolo nella prima lettera a Timoteo dice, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ricordiamocele queste cose perché si dicono poco e alle volte non si capiscono per nulla, per cui vediamo Dio come uno che mi può mandare all'inferno. No, Dio mi può solo salvare. Se vado all'inferno è perché ci voglio andare io, non perché mi manda lui. Ne abbiamo già parlato nelle catechesi dell'altro anno. Che cosa significa Cristo? Cristo, Christos in greco, deriva dall'aramaico e dall'ebraico Mashach, che vuol dire uno che ha ricevuto l'unzione d'olio. Attraverso l'unzione di olio nella Bibbia dell'Antico Testamento veniva consacrata una persona per farla diventare o sacerdote o re o profeta. L'olio nell'Antico Testamento veniva usato appunto per consacrare, per ungere queste persone e significava impregnarle di Dio. Voi un po' meno, ma le vostre mamme, le vostre nonne si raccomandavano, fammi di tutto sui vestiti, ma non farmi macchie di olio perché non riesco più a tirarle fuori. Ed è questa la caratteristica dell'olio. Penetra, impregna una persona, una cosa, ed è difficile poi tirare fuori sto olio, grattarlo via. Quindi è Dio, lo Spirito Santo, la potenza di Dio che penetra dentro di noi, ci divinizza, per avere la capacità di portare a termine la missione di sacerdote, di re o di profeta che questa unzione ci fa diventare. La missione di sacerdoti, di re e profeti, si dice per i cristiani, ma non possiamo stare a dilungarci, che con il battesimo sono diventati come Cristo sacerdoti, re e profeti. L'unzione del battesimo ci ricorda che siamo come Cristo sacerdoti, re e profeti. Sarebbe bello aver tempo per spiegare che cosa vuol dire re, ma vi dico solo la frase finale del Vangelo di Matteo, come dice: venite benedetti dal Padre mio a prendere possesso del regno preparato per voi fin da prima della creazione del mondo. Qualche donna anziana, umile, pia e quant'altro usa l'espressione: mi basterebbe entrare appena appena dentro dalla porta del paradiso, lì dove tengono le scope. No, signora, mi dispiace, non è quello lì il posto in paradiso. Siederete su dei troni, verrete a regnare con me. Noi siamo i figli del re, i fratelli del re Gesù Cristo, re dell'universo, come celebriamo alla fine di ogni anno liturgico. Altra cosa, allora, cosa vuol dire questo Messia? È un uomo, Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha ricevuto dal Padre la potenza dello Spirito Santo, è diventato sacerdote, re e profeta, per avere la capacità di salvare il mondo intero, di offrire il mondo a Dio come sacerdote, di reggere, sorreggere, portare sulle spalle, perché questo vuol dire fare il re, e tutta l'umanità come il buon pastore si prende sulle spalle la pecora smarrita e la porta all'ovile. Allora, i primi che l'hanno incontrato, parliamo di quelli che l'hanno incontrato da adulto, gli apostoli, i primi amici, che cosa avevano capito di Gesù Cristo? Poco o nulla. Per quale motivo gli sono andati dietro? Perché Gesù Cristo, con un imperativo bello secco, ha detto: seguitemi, lasciate il vostro lavoro e seguitemi. L'hanno seguito con quale idea? Il Vangelo ce lo dice chiaramente. Hanno seguito questo tale che aveva una personalità affascinante, che aveva insomma il piglio del leader, e l'hanno seguito per far carriera. Quando Gesù dice: vado a morire sulla croce, Pietro lo stoppa, lo blocca subito, dice: come morì sulla croce? Noi dobbiamo andare a Gerusalemme a prendere il potere, tu diventi re, noi diventiamo ministri. Ma scherziamo, ci cambi le carte in tavola. Gli altri dicono: facci sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, e via di questo passo. E Gesù Cristo allora dice: sì, io sono il Cristo. Pietro, il Padre attraverso di te ha rivelato che io sono il Cristo, il Figlio di Dio. Ma non ditelo a nessuno, perché devo prima spiegare e poi farvi vedere coi fatti che cosa significa essere Cristo. È tutto il contrario di quello che avete in testa voi. Cosa si aspettavano? Allora, carriera, avanzamenti, speravano insomma che Cristo venisse a liberare Israele dal dominio dell'impero romano, diventasse re, combattesse e distruggesse i nemici e avanti di questo passo. Gesù Cristo non viene per fare il politico, non viene per fare il condottiero, non ammazza nessuno, non fa la guerra a nessuno, e diciamocelo pure anche noi oggi, avremmo piacere che Gesù Cristo, ricordo la catechesi fatta anche questa mattina dal Papa, invece che venire a insegnarci siate misericordiosi, ci vuole la pace che avviene con il perdono e con la bontà e con questo e con quello, dicesse: prendo in mano le cose, io faccio funzionare la Repubblica Italiana, l'Europa, metto in piedi l'economia, faccio rigare dritte le persone. Quello sì che serve. Cosa ne facciamo di un Cristo che viene a dirci: perdonate, siate buoni? No, non serve a niente. Mentalità purtroppo diffusa. qualora che Gesù ha dovuto dire: io sono un messia perdente, secondo la logica umana, finché mi vedete bastonato e appeso in croce, o sarò poi vittorioso anch'io con la risurrezione e l'ascensione al cielo, dopo essermi umiliato fino alla morte di croce, il Padre mi collocherà al di sopra di tutti come Signore del cielo e della terra. Ma quello è già, diciamo, l'altro mondo. In questo mondo io sono un fallito, uno che va a finire male. Però se mi venite dietro attraverso la strada che faccio io, anche voi arriverete in paradiso. Non ci ha promesso diventerete ricchi, vi do il potere, vi do fama. No, no, chi vuol venire dietro a me deve essere povero, umile e umiliato come me. Decidete. Ecco, allora, che non è proprio una proposta così che entusiasma di primo acchito, entusiasma coloro che, entrando e facendo l'esperienza del seguire Cristo, povero, umile, umiliato, capisce che quello è il vero modo per amare e per essere amati. E noi sappiamo che la gioia è la figlia primogenita dell'amore, è un'emanazione dell'amore. Bisogna che lo diciamo e lo ripetiamo fino alla noia, ditelo anche in casa vostra, ditelo anche ai figli. La gioia non si trova nel diventare ricchi, nel fare le sbaraccate, le mangiate, le vomitate o quelle cose. Si è tanto contenti quanto si ama e si è amati. E l'amore è esattamente il contrario dell'egoismo, quindi meno si è egoisti e più si ama e più si è felice, anche senza una lira in tasca. Ricordo per esempio San Francesco, visto che è il patrono d'Italia. Cosa dobbiamo dire noi di Gesù, della Trinità? Perché qui poi bisogna dire, insomma, credo in un solo Dio, poi salta fuori che c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, sono tre persone, un solo Dio. È un mistero, ecco, sì, è un mistero, ma mistero non vuol dire una cosa di cui non si capisce niente, una porta chiusa contro la quale si va a sbattere la testa, no. Sant'Agostino diceva: il mistero è una cosa che non finiremo mai di capire, ma di cui possiamo capire poco tanto, più ci inoltriamo in questo mistero. Quindi qualcosa si può capire. Ecco, allora, ci sono tre persone, un solo Dio. Quando leggiamo la Bibbia nelle sue prime pagine, per esempio, quando racconta la creazione dell'uomo, della donna e della famiglia, a dir la verità un sospetto adesso a cose avvenute potevamo averlo. Quando Dio, parlando al plurale, dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e li creò maschio e femmina, diede loro la capacità di crescere, la capacità di generare dei figli, di fare famiglia. Adesso lo si può dire con tutta certezza: questo Dio che fa l'uomo a sua immagine e somiglianza e ne fa già due persone, maschio e femmina, i figli che nascono da queste due persone, voleva farci già intuire che, creando la famiglia qui in terra, lui creava qui in terra la proiezione, l'immagine di quella che è la sua realtà in cielo, perché Dio è famiglia. I padri della Chiesa, lo so bene, erano molto, molto guardinghi a usare questa parola famiglia, peggio ancora comunità, che forse non è la parola da usare. Ma ho visto che molti teologi, anche di grido, e qualche documento della Chiesa, e io sono contento e sono da quella parte, dicono chiaramente che la Trinità è la famiglia di Dio. Si parla di un padre, che nella Bibbia è chiamato anche madre, di un figlio e dell'amore che collega questo padre con questa sua creatura, diciamo, questo figlio. È la stessa cosa che noi viviamo in una famiglia. E la pista è giusta. Allora qui il credo ci dice: Dio non è una persona sola, sono tre persone tanto unite tra di loro perché si vogliono bene che sono un Dio solo. E Gesù ha pregato dicendo: Padre, voglio che anche i miei cristiani siano una cosa sola con me, come io sono con te, affinché tutti insieme siamo perfetti nell'essere uno, nel diventare unità. Vi ho già ricordato altre volte, uno degli scopi non secondari della Santa Messa è farci diventare uno. Uno nell'amore, ossia gente che si ama tanto, che si strucca tanto l'uno con l'altro da penetrarsi l'un l'altro, da diventare solo, uno solo. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo, che vuol dire ci faccia diventare una sola persona, tra di noi e con Cristo. Questo è il risultato dell'amore. E questo risultato c'è in Dio. Tre persone che sono un Dio solo e sono unite tra di loro da formare un'unica realtà, tanto si vogliono bene, un bene infinito. Ed è la famiglia Trinità il modello su cui è stato creato tutto il mondo. E la famiglia umana, a maggior ragione quella cristiana, deve ricopiare qui in terra la famiglia del Padre Eterno del Paradiso. Quello è lo scopo del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Si vola alto, si potrebbe trattare una conferenza, un'ora, due o tre su questa tematica, ne varrebbe la pena. Cito la domanda che fecero a un vescovo anglicano alla fine di una conferenza. Gli chiesero a questo vescovo, John Robinson, è già morto da qualche anno, come insegnerebbe a un bambino la dottrina della Trinità? E lui rispose: non ho mai sentito farmi una domanda più facile di questa. Vi rispondo subito, non gliela insegnerei affatto. Cioè, insegna al bambino la Trinità. No, no, no, stai zitto, non dirgli niente. Perché? Se la Trinità è la famiglia di Dio, secondo voi, dov'è che il bambino può capire, anche se in forme ridotte, non perfetto, che cos'è una famiglia e quindi capire anche la famiglia di Dio? Voi con i vostri bambini avete fatto scuola, vi siete fatti una cattedra, le sedie, state lì, prima lezione, il papà è, la mamma è, la famiglia è, la coppia è, avete fatto lezioni annuali con la pagellina. La famiglia si impara a capirla vivendoci dentro, guardando quello che fanno i più grandi, il papà e la mamma, e ascoltando quel che dicono e valutando quello che dicono, e lo si prende oppure lo si rifiuta, secondo dei casi. Se i vostri figli, ma anche se voi, doveste scrivere un tema, chi è il papà, chi è la mamma, che cos'è la famiglia, probabilmente girereste la penna a vuoto tra le mani, mi dice: mi fanno fare il compito sulla famiglia. Io ce l'ho la famiglia, sono sposato, ho moglie, dei figli, sono anche nonno, ma mi hanno detto di fare un tema sulla famiglia. Sono mica capace. Non è importante fare il tema sulla famiglia, è importante che tu abbia fatto una bella famiglia, che l'abbia portata avanti bene, e tu la conosci meglio di quelli che scrivono dei libri interi su che cos'è la famiglia. Non è una esperienza da fare con delle lezioni dottrinali, con dei fogli in mano, è un'esperienza d'amore che si fa vivendo all'interno della famiglia. È la stessa cosa che la Santa Madre Chiesa propone a noi cristiani. Si arriva al battesimo. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco la famiglia di Dio. Facciamo le preghiere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Finiamo una preghiera anche di quelle ufficiali in Chiesa per Gesù Cristo, nostro Signore, nostro Dio, uno, che vive e regna con te, con Dio Padre, nell'unità che è lo Spirito Santo, e ritorna fuori la famiglia di Dio. Tantissime cose. La stessa preghiera lasciataci da Gesù Cristo: quando pregate Dio chiamatelo papà, ditemi voi dov'è che si chiama uno papà se non in casa sua. I suoi figlioli lo chiamano papà. Vuol dire, voi siete figli di Dio, siete dentro nella famiglia di Dio, chiamatelo papà. Vedete che questa famiglia di Dio, che è la Trinità, se si sta un po' attenti, salta fuori nelle nostre pratiche di preghiera, nella messa, nel gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, che abbiamo recitato alla fine dei Salmi questa sera in tante altre occasioni. E si impara a conoscere il papà e la mamma, i fratelli maggiori di noi, quando si nasce in una famiglia, istintivamente direi. Si distingue la voce del papà da quella della mamma, le mani robuste del papà rispetto a quelle della mamma, che sono più delicate. Ma non si fanno lezioni per dire, allora hai capito la differenza tra le mani del papà e quelle della mamma? C'è mica bisogno, è un'esperienza che fai man mano che vivi tra le braccia, sulle braccia di due genitori. E anche di, sai che cosa vuol dire avere un fratello? Provate a dire ai vostri figli, fammi un tema dicendo, che cosa vuol dire avere un fratello? Probabilmente non riescono a farlo, però sanno che cos'è un fratello, sanno cosa vuol dire avere una compagnia, uno con cui parlare, con cui andare a spasso, mi raccomando, stai attento al tuo fratello, e anche con cui ogni tanto purtroppo si sbaglia o ci si arrabbia un po'. Ecco, allora, noi possiamo capire Dio più che attraverso delle lezioni aride di teologia, attraverso l'esperienza che oltretutto ci viene presentata dalla Bibbia, che è quello di entrare nella famiglia di Dio, e ci siamo già entrati dal battesimo, quindi da anni, viverci dentro, invece di far mille domande, guardare un po' cosa fa, com'è questo Padre, questo Figlio Gesù Cristo, questo Spirito Santo, e fare l'esperienza di famiglia come hanno fatto i tuoi figli, nascendo e guardandosi attorno in casa tua, dal giorno della nascita fino ad oggi. Perché San Giovanni nella sua prima lettera ci dice, chi ama conosce Dio, perché Dio è amore. Quindi è la strada dell'amore, l'esperienza dell'amore che ci fa conoscere Dio, che è amore. Non è un pensiero astratto, non è una serie di volumoni teorici, filosofici, di idee strane, ma sono cose da lasciategliele scrivere, ma non leggetele, tempo perso. L'esperienza di Dio, la conoscenza di Dio la si fa per via di amore, sentendosi amati da Dio, abbracciati teneramente da Dio, stando insieme con Dio. Ricordo quello che scrive di una sua visione la beata Angela da Foligno. Pareami un giorno di stare a giacere in mezzo alla Trinità. Mi fa venire in mente quello che potrebbe dire un bambino. Mi ricordo un giorno che ero a letto con mio papà, la mia mamma, mia sorella e mio fratello, avevamo fatto lì tutta una adunata sotto le coperte e ci siamo divertiti un mucchio. È l'intimità con Dio, simile all'intimità familiare, che ci fa capire Dio, perché Dio è amore, Dio è padre, Dio è figlio, Dio è famiglia. Sapeste quanto soffro io per le famiglie che non funzionano, per loro poverini, ma anche perché perdiamo una testimonianza superlativa di Dio che si fa presente, si fa vedere come famiglia, attraverso la famiglia, si spegne una luce che poteva illuminarci, darci un aspetto, un particolare della famiglia di Dio. Quindi lasciamo via il passepartout dell'intelligenza teorica, arida, non porta da nessuna parte, ve lo dico io. Noi diciamo allora che Dio è una pluralità di persone, più di uno, sono tre. Dio è amore, e sapete quanto ci abbiamo insistito, ed è la verità centrale di Dio, Ma se Dio fosse una persona sola, non potrebbe essere amore. Sarebbe un egoista, ossia amerebbe se stesso. Uno può essere amore solo quando ama un altro distinto da sé. Se non fossero tre persone, Dio non sarebbe amore. Conseguenza, non avrebbe creato il mondo e noi non saremmo qui a Bellusco stasera a parlare di Dio, famiglia, della tua famiglia, della parrocchia che deve essere fatta a immagine della famiglia che è la Trinità. Perché un Dio egoista non si sarebbe mica preso tutti i grattacapi che si è preso Dio creando l'universo e l'umanità, con tutto quello che gli abbiamo combinato, faceva quattro conti, se non mi conviene mica. Ma Dio ha creato il mondo, un mondo anche con la sua povertà, se volete, con il nostro peccato, che era previsto da Dio, che saremmo stati fragili, eccetera, perché è un amore che va al di sopra, direi, dell'orlo, come quando bolle il latte e esce fuori dal recipiente. Era un amore soddisfatto infinitamente dall'amore per il Figlio, questo amore che è lo Spirito Santo, ma ha voluto anche tirare dentro nel giro del suo amore anche noi, per avere altri figli, altre figlie da amare. E vedete che non finisce mai. 6 miliardi di figli e di figlie, più di 6 miliardi. Qualche volta noi, che non siamo sempre immagine di Dio, diciamo: a me bastano quelli che ho e ne ho fin sopra i capelli. Invece Dio aveva detto all'inizio: mi raccomando, crescete, moltiplicatevi. Sostanzialmente questo comandamento l'abbiamo messo in pratica. Allora, qui abbiamo un compito sbalorditivo, e anche su questo penso che bisogna soffermarsi un po'. Noi cristiani siamo gli unici che conoscono il vero Dio. Diciamo, gli ebrei hanno una conoscenza dimezzata, non completa, pericolosa. Ma i musulmani, anche quelli, adorano il Dio del cielo, Allah, fanno le loro preghiere, sì. Ma dove sta la differenza? È molto semplice. Se io vengo a casa tua pensando che tu sia solo in casa, una persona, un singolo, e vedo che c'hai anche una moglie e un figlio, e dico: a te, guarda, pensavo che tu fossi uno che vive da solo, invece in casa tua c'è anche una moglie e un figlio. Non è la stessa cosa, sapete. Pensavo di trovarne uno, ne ho trovati tre. Ho detto prima, ribadisco, se Dio fosse una persona sola non amerebbe che se stesso e non avrebbe creato il mondo e non ci saremmo neanche noi e via di questo passo. Un giorno, parlando di questo tema con un rabbino di una grande città d'Italia, dice: ma come fate voi a dire che Dio è amore, misericordia, questo e quello, come è scritto nella vostra Bibbia, se non accettate anche la rivelazione ultima di Dio che dice: sì, noi siamo amore perché siamo io, il Figlio e lo Spirito Santo, ossia siamo più di una persona, perché, ripeto, l'amore è il bene che si vuole a un altro, non il bene che si vuole a se stessi, perché quello è egoismo. Se in Dio non ci fossero almeno due persone, Dio non sarebbe amore e non ci sarebbe il mondo. Ma sappiamo anche nella nostra esperienza che due persone possono essere un egoismo a due, anche in qualche coppia di sposi. L'amore di due persone ha l'esigenza di aprirsi verso una terza persona che è il Figlio. L'ebreo non conosce il vero Dio, il musulmano non conosce il vero Dio, pensa che sia una persona sola, invece sono tre. Dobbiamo dirlo con rispetto, certamente, perché su queste tre persone si può impostare il discorso dell'amore, della creazione, della salvezza e di quant'altro. Su un Dio che fosse una persona sola, il discorso sarebbe già chiuso perché da solo, amando se stesso, non avrebbe creato il mondo, perché non gli conveniva, stava già bene per i fatti suoi. Lasciamo via la parte teologica che è stata inserita da un concilio dell'antichità, Dio da Dio, luce da luce, per chiarire certe cose che ovviamente gli eretici di allora avevano negato. Passiamo all'altra espressione, Gesù Cristo nostro Signore. Cosa vuol dire nostro Signore? Noi giriamo per la strada, incontriamo, dice: buongiorno Signore, scusi, mi può indicare dov'è il comune, la chiesa? O... noi diamo del Signore o della Signora a tutti. Qual è il significato di Signore nella Bibbia? Dobbiamo dire che alcune volte, io ne ricordo una per non dilungarmi, anche nel Vangelo il nome Signore c'è il significato che usiamo noi, si dice alcuni greci. Qualche giorno prima della Pasqua si avvicinarono all'apostolo Filippo. Filippo è un nome greco, vuol dire amante dei cavalli, tifoso dei cavalli, avendo un nome greco, andiamo da quello che ci capisce, c'è un nome greco come noi, e gli dicono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Ecco, gli dice Signore come io lo potrei dire a uno di voi. Ma è un caso eccezionale. Quando... 2-3 secoli prima di Cristo, gli ebrei, visto che si erano sparpagliati per il mondo e vivevano dove si parlava greco, fecero la traduzione della Bibbia ebraica e aramaica, perché alcuni pezzetti sono scritti in aramaico, fecero la traduzione in greco, si trovarono a dire: come traduciamo il nome impronunciabile che noi diciamo Yahweh? E scelsero come termine Kyrios, da cui deriva il nostro Kyrie eleison, che vuol dire Signore abbi misericordia. Da allora nella Bibbia il termine Kyrios vuol dire Yahweh, Dio, né più né meno, il nome stesso di Dio tradotto in lingua greca. Questo Kyrios è stato tradotto in latino con Dominus e in italiano con Signore. Allora Signore è il nome stesso di Dio. Dire che Gesù Cristo è nostro Signore vuol dire riconosciamo che Lui è Dio, il Figlio di Dio. Dello Spirito Santo si dirà: credo nello Spirito Santo che è Signore, che è Dio, e dà la vita della creazione, la vita della grazia, la vita eterna, dà la vita e procede dal Padre, dal Figlio. Quindi il Padre è Signore, Gesù Cristo è Signore, lo Spirito Santo è Signore, che vuol dire Dio. Detto questo, allora dobbiamo tirare delle conclusioni. Quel falegname che hanno visto circolare in Palestina 2000 anni fa, Gesù di Nazareth, figlio di Maria, figlio di Dio, ritenuto figlio di Giuseppe che gli ha fatto da padre e tutore, quel falegname di professione è Yahweh, Signore, Dio, né più né meno, Dio diventato uomo. San Paolo nella lettera ai Romani dice una frase che non è facile da capire, ma diventa facile a questo punto. Dice al cristiano: se tu proclamerai con la bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Cosa vuol dire proclamare con la propria bocca che Gesù, il figlio di Maria, il falegname di Nazareth, quello che ha predicato, quello che è stato crocifisso, è Signore? Vuol dire Gesù, l'uomo di Nazareth, è Dio. Tiriamo qualche conclusione pratica. Quanti signori abbiamo noi nella vita? L'argomento è importantissimo ed è scottante, perché noi nel credo diciamo: io credo in un solo Signore, che è Gesù Cristo. Un solo Signore, che vuol dire uno che è Dio, e che è anche il nostro Signore Gesù Cristo, che vuol dire nostro proprietario, apparteniamo a Lui. È lo sposo dell'umanità, quindi è il Signore della mia vita, lo sposo di tutta l'umanità salvata, come si legge nell'Apocalisse. Allora, può capitare che noi, oltre questo Signore che dovrebbe essere unico, abbiamo anche altri signori, e Cristo non li vuole, perché giustamente è geloso di noi, perché noi siamo suoi, non siamo di quello o di quell'altro. Nei primi secoli della Chiesa tutti volevano essere Dio di qualcuno. L'imperatore di Roma dice: io sono Dio, voglio i templi, la mia statua, voglio onori divini. La dea Roma è dea, poi c'è tutto il resto, Giove, Giunone e quanti altri. I cristiani, di fronte a questo stato così pieno di divinità, dicono: ma noi non possiamo accettare queste persone come nostro Dio. Noi abbiamo un solo Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e abbiamo un solo Signore Gesù Cristo, per cui né Roma, né l'imperatore, né Giove, né Giunone sono nostri signori, nostri padroni, a cui dobbiamo obbedienza o a cui dobbiamo dar qualcosa. Per noi quelli lì non contano niente. I cristiani sono stati ammazzati soprattutto perché hanno rifiutato di riconoscere l'imperatore romano come Dio e Signore. Stiamo a capirlo questo. Li ammazzano per il gusto di ammazzare la gente? No, questo è uno che non accetta la nostra religione. L'imperatore è Dio e devono adorarlo anche loro. No, io Dio non riconosco Dio nell'imperatore, non è il mio signore, non è neanche il mio padrone. Io obbedirò all'impero, pago le tasse, faccio tutto quello che deve fare il cittadino, ma io ho un solo signore che è Gesù Cristo. Bene, allora ammazzatelo. Questa è la causa fondamentale dei martiri e dei martirizzatori di quel tempo. Quindi leggo per guadagnare tempo. Anche noi abbiamo tanti signori nella vita, corriamo dietro a delle persone cacciando tutta la nostra fiducia lì in una forma anche acritica. Persone politiche, ricordate Hitler, ricordate Mussolini, se avessero gridato, non solo cantato Neni in chiesa: noi abbiamo un solo Signore Gesù Cristo, e tu Adolfo e tu Benito non siete i nostri padroni, per cui non andate per la strada di Cristo, vi tiriamo giù e ne mettiamo su un altro, non avremmo avuto tutti sti guai che continuano ancora oggi. Anche noi oggi abbiamo i divi dello stadio, i divi della canzone. Io posso capire un po' di isterismi delle ragazzine che quando le intervistano sotto il palco: quello è un dio, lui, e poi basta, lo amo con tutto il mio cuore. Tutte le cose che sarebbe da dire nelle preghierine del buon cristiano le vanno a dire nei confronti di un cantante. Dice: sono indici, perché per quel cantante lì viaggiano 1000 chilometri, spendono soldi, rischiano di essere schiacciati nella calca, svengono, li portano fuori, devono portare all'ospedale per andare dietro a Gesù Cristo, ma neanche mezzo euro spendono, perché Gesù Cristo per loro non conta nulla, non è il loro Signore, non è la persona che loro amano. Il loro amore e la loro passione l'hanno rivolta, ripeto, gli adulti a un politico, i giovanotti al cantante o al pilota di Formula 1 o al corridore di motociclette. Provate a dir messa a San Siro e vedete se mettete insieme 100.000 spettatori. Quelli che non hanno tempo di andare a messa la domenica, il tempo per vedersi la partita o tutti quei discorsi, tra l'altro anche robe veramente umilianti. Gente della mia età, ossia vecchi, senza mezzi, che discutono per un pallone, per un centimetro, se quello ha giocato e se l'hanno comperato, se lo devono vedere come fossimo al mercato dei conigli o del bestiame. Oh! Per Gesù Cristo non si scalderebbero altrettanto. Gesù Cristo è veramente il loro Signore, il mio Signore, il tuo Signore. Ma ci dedichiamo all'adorazione del denaro più che all'adorazione di Dio. E poi anche del potere e di coloro che detengono il potere e del prestigio e della bellezza. Siamo in Quaresima, una battuta si può fare. Se la Chiesa dice digiuno e astinenza, tutti mangiano e bevono e se ne impippano. Se vai dalla dietologa dice lei deve mangiare una gamba di sedano una volta ogni 24 ore, un'obbedienza, ma pazzesca. Dio dice, dovevo fare anch'io i comandamenti, mangiate solo una gamba di sedano una volta al giorno, almeno osservavano i miei comandamenti. Vediamo passare una che porta un vestito tutto strimpellato, stracciato, non sfilato, siamo lì che sbaviamo, oh buon Dio, passa Cristo, ci giriamo dall'altra parte, c'è la messa in televisione, dai cambia canale che vediamo la partita, vediamo, non lo so, linea verde. Ma Cristo è davvero il mio Signore, lo cerco dappertutto, sono un innamorato cotto, dappertutto c'è, io gli corro dietro, gli salto addosso. Il cristiano deve essere così. Allora può dire, credo in un solo Signore. Sono innamorato, perso io per il Gesù Cristo, il resto, gli altri, relativamente. Ma non guardi la partita, sì, beh, ma però anche se non la guardo, io ho perso la testa per Gesù Cristo, mica per il pallone. Il cristiano può verificare l'autenticità della sua fede in Gesù Cristo come unico Signore, misurando l'allergia che sente verso ogni tipo di piccoli assoluti, di signori, che pullulano nella società umana. Dobbiamo essere allergici verso tutti quelli che vogliono essere il signore della nostra vita all'infuori di Cristo. No, mi dispiace, io c'ho un solo Signore Gesù Cristo. Tu sarai una brava persona, ma tu non sei né mio padrone, né mio giudice, non sei un bel niente. Sei un grande fratello, una brava sorella a cui io voglio del bene, tutto quel che vuoi tu. Ma io di Signore ne ho uno solo, si chiama Gesù Cristo. Non è facile vivere il credo quando lo si tira così nella quotidianità, diciamo. Certamente il cristiano rende volentieri l'onore a Cesare, al governo, al capo del governo. È scritto anche nella Bibbia. Onorate quelli che hanno l'autorità. La Chiesa ha sempre pregato per le autorità civili, per quelle buone anche per quelle cattive. Quindi non andiamo a buttare all'aria lo Stato politico, sociale, no, però quelli non sono i nostri signori. A ciascuno l'onore che merita, ma io devo sentirmi sovranamente libero e seguire un solo Signore, che è Gesù Cristo. Anche la Chiesa come comunità cristiana, come Chiesa universale, deve stare attenta ad avere rispetto per tutti, ma avere fede e amore proprio sconfinato in Gesù Cristo, che è il suo Signore, il suo Sposo. Diversamente ricordate Dante che diceva «Vidi la Santa Chiesa puttaneggiar coi regi», ossia ha tradito Cristo e ha fatto la puttana con tutti i re, i ricchi e i politici del tempo. Giusta o falsa questa sua constatazione, ma comunque l'ha messa dentro nella Divina Commedia. La Chiesa non deve rendere culto agli dèi di questo mondo, né neanche esigere per se stessa un culto, il culto della personalità. C'è stato anche in tempi recenti, sa, il Papa, sempre il Papa, tutto il Papa, il buon pastore, ieratico, lì, bravissimo. Tutti gli altri non erano nessuno. Poi dopo si tira fuori il Vescovo che è lo sposo della diocesi e bisogna alle volte mettere dei dubbi. Credo che certe cose bisognerà rivederle e metterle via. No, no, no, no, no, no, no, no. Io voglio bene al Papa, al Cardinal Tettamanzi, al vostro parroco, voglio bene a tutti, ma mi dispiace. Ma io sono il vicario di Cristo. Ma Cristo non se n'è mai andato via dal mondo, è mica andato in ferie. Il vicario serve quando manca il vescovo, quando il vescovo è occupato e dice andate dal vicario che è il mio aiutante. Ma Gesù Cristo non se n'è mai andato. Non ha bisogno di aiutanti nel senso che lui riesce ad ascoltare tutti e portare avanti le pratiche di tutti in giornata. No, no, ridiamo questa centralità. Non chiamate nessuno padre se non il Padre Eterno. Non abbiate nessun Signore da venerare se non Gesù Cristo. Bisogna sforbiciare tanto, bisogna potare tanto ancora. Ci sono troppe foglie secche, rami secchi che impediscono alla pianta di crescere. Chi sono allora gli altri al di fuori di Gesù Cristo? Ve l'ho già detto altre volte. Sono fratelli e sorelle in atteggiamento di reciproco servizio. Gesù Cristo nell'ultima cena, vi ricordate, ha dato agli apostoli il potere, quello di servire, di lavare i piedi, quello è il loro potere. Una divisa per il comando e per la liturgia, il grembiule. Forse bisogna sfoltire ancora le pomposità anche della liturgia, perché nascondono quello che dovrebbe manifestarsi. Dico una cosa che ha dell'eccessivo, lo dico subito, però se quando facciamo le ordinazioni sacerdotali o le consacrazioni dei vescovi giocassimo questa carta giocata da Gesù Cristo, li portassimo in chiesa e dicessimo spogliati del vestito della festa o delle cose, ti metti un grembiule e vai giù in chiesa, prendi alcune persone a caso e lavi loro i piedi. E poi si dice alla fine, ecco questo è il compito del vescovo, l'ha già esercitato lavando i piedi, ma non a delle persone già preparate, profumate. Così i primi che capitano, la gente capirebbe di più che il prete, che il vescovo sono dei servi, dei lavapiedi e non dei padroni, dei signori, dei privilegiati, di quelli che stanno in su, di quelli che. Perché noi tendiamo sempre a emergere, perché siamo vuoti, perché non abbiamo peso. Ve l'ho detto altre volte, la gloria di Dio, vuol dire il peso di Dio. Come mai Dio che ha creato il mondo, Gesù Cristo che ha salvato tutti, non li vediamo mai? Perché fanno tutto e non si fanno vedere, non si mettono in mostra, non sono vanesi come noi. Hanno peso, hanno sostanza, vanno sul fondo e tutti quelli che appaiono sono quelli senza peso, sono le pagliuzze, sono le bolle di sapone, sono le cose che non hanno peso, che stanno a galla. L'oro e l'argento vanno sul fondo. Dio è uno che sta sul fondo, è uno che sorregge tutto, fa andare avanti il mondo, risolve tutti i problemi, salva tutti e non si fa vedere, nel senso che non dice guardatemi, guardatemi, guardatemi. Lo si intravede attraverso le persone, perché guardando un cristiano si dovrebbe dire quello lì ha la stessa faccia, gli stessi comportamenti di Dio, allora ci siamo. Ma si fa vedere attraverso di te, non si mette lì lui a pavoneggiarsi. Fu concepito di Spirito Santo, si dice anche nel Credo. Dobbiamo stare qui a fare le teorie sul concepimento di Gesù. Ma la cosa, secondo i Vangeli, è chiara. Gesù Cristo, figlio di Dio da sempre, diventa anche figlio dell'umanità, nascendo da una donna, Maria di Nazareth. Quella è sua madre umana, non ci sono dei dubbi. Siccome ha dato la vita a uno che è figlio di Dio, è anche madre di Dio. Il padre chi è? Non è San Giuseppe, chi è? E lo dice il Vangelo che lo leggeremo. L'angelo disse, questo figlio sarà figlio di Dio, dell'Altissimo, sarà generato in te, non per potenza generativa di un uomo, ma per la potenza creatrice, generatrice di Dio, che è lo Spirito Santo. Quindi, tiriamolo. Gesù Cristo è figlio del Padre dall'eternità ed è anche figlio di una madre umana da 2000 anni a questa parte. risuscitato e salito al cielo, non è tornato su solo come figlio del Padre, come quando è venuto in questo mondo, è andato su come figlio di Maria, come uomo, seduto alla destra del Padre. Non c'è il Gesù Cristo solo Dio che c'era prima, c'è su un Gesù Cristo che è anche uomo. Alla destra del Padre Eterno non ci sta seduto un angelo, c'è su un uomo, c'è su uno come noi, figlio di Dio, vero uomo, Gesù, figlio di Maria. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù, che vuol dire Dio che salva. Già questo nome dice è Dio, figlio di Dio. Sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, quindi del Padre Eterno. Il Signore Dio, suo padre, gli darà il trono di Davide, suo padre, come generazione umana, discendente di Davide, e questo figlio regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Come faccio a fare questo figlio? Io non ho rapporti con un uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, che è ancora lo Spirito Santo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. E dà anche una notizia che nessuno sapeva. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Non stiamo a fare l'esegesi, tra l'altro un brano bellissimo. Tuo figlio sarà figlio tuo e figlio della potenza dell'Altissimo, di Dio Padre, quindi sarà concepito per opera dello Spirito Santo, della potenza generatrice di Dio. Ci si potrebbero far su tanti discorsi, ma si spera che tutto l'anno liturgico se ne parli e tanto. Noi questa sera ovviamente non possiamo soffermarci se vogliamo arrivare in fondo al credo, quando sarà l'ultima serata. E c'è una cosa però che mi preme dire a me e a voi. Noi cristiani, abbastanza bene, così senza farci troppi problemi, cioè, sì sì, Gesù Cristo è figlio di Dio, l'hanno sempre detto, lo dice anche la mia mamma, ci credo, ed è bello ed è giusto. Dio è diventato uomo, quindi Gesù Cristo è figlio di Dio, diventato uomo. Ma questa incarnazione ci dice anche che Gesù Cristo, Dio diventato uomo, è diventato uomo per arrivare ad essere in tutti gli uomini, a salvare tutti gli uomini, perché noi lo riconosciamo in tutti gli uomini. E in quello che è l'esame di coscienza che ci viene proposto nella parabola del capitolo 25 di Matteo, Gesù dirà: io avevo fame e tu mi hai dato da mangiare, oppure non mi hai dato da mangiare. Io avevo sete, ero privo di vestito, ero senza casa, ero malato, ero in carcere. E tutti, sia quelli che stanno alla destra che quelli che stanno alla sinistra, diranno: ma Signore, ma noi non ti abbiamo mai visto, cosa conti su? Tutte le volte che avete fatto queste cose, oppure non avete fatto queste cose, a qualunque persona che avete incontrato nella vostra vita, le avete fatte o non le avete fatte a me? Ossia, Dio Figlio, diventato uomo, è presente in ogni uomo, si identifica con ogni uomo, buono o cattivo che sia, e vuole essere riconosciuto da noi per mezzo della fede, in incognito, perché lì uno dice, tanto come chiamiamo noi a volte, quel disgraziato, quel cretino, altri, io quello lì lo ammazzo, dice, ma guarda che quello lì è Gesù Cristo, ora Gesù Cristo, è importante credere che Gesù Cristo è Dio, ma è importante credere anche che è uomo ed è presente in ogni uomo, in ogni donna, e quello che si fa a Cristo, quello che si fa ad ogni uomo e donna è fatto a Cristo, e quello che non si fa o si fa di male a qualunque persona è fatto direttamente a Cristo. Dirà, io avevo fame, io avevo sete, non uno che era mio amico al quale io volevo bene, ero io in persona. Conclusione, il marito deve dire, io in casa c'ho Cristo che è mia moglie, io c'ho in casa mio marito che è mia moglie, mio figlio, mio marito che è Cristo, io in casa mio figlio che è Cristo, e quello che faccio di bene o di male a queste persone lo faccio a Cristo. È una verità ovvia, logica, questa l'abbiamo sviluppata meno. L'importante è credere che Dio, no? Importante credere che Dio, è altrettanto importante credere che uomo si fa presente a noi in ogni uomo per essere venerato, amato, servito, accolto, eccetera, eccetera. Qui abbiamo ancora un pezzettino di testo. Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso. Non so se finiremo questa parte. Notate una cosa del credo. Dopo aver detto fu concepito di Spirito Santo e nacque da Maria Vergine, si passa subito a dire patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso. Per i musicisti questa è una dissonanza, se non addirittura per qualcuno una stonatura. Ma come? Vicino a Maria, che è la donna che ha amato di più Gesù Cristo, suo figlio, ci caccia lì il più boia dei boia, che è Ponzio Pilato, che lo ha condannato a morte. E qui il bello del credo. Queste due persone, Maria e Pilato, formano un incontro-scontro, una dissonanza ardita. La più santa delle creature della terra con uno dei gaglioffi più grandi. Mediante loro due, il Figlio di Dio è veramente incorporato nella nostra umanità. Si è unito alla nostra razza umana, diciamo così, mediante la sua madre umana, Maria. Si è unito, è conosciuto, ne parlano anche gli storici pagani, è entrato nella storia umana, civile e politica, mediante Ponzio Pilato. Anche quello ha avuto il suo perché. Nella Bergamasca, quando uno parla vanvera, o quando mette il naso nelle faccende, lo riguarda e dice, tu c'entri come Ponzio Pilato nel credo. Ossia, non c'entri niente, non si sa perché cosa l'abbia messo dentro. No. Ponzio Pilato è colui che ha portato Cristo dentro nella società, nei popoli, nella politica, nel mondo civile. Maria e Pilato, l'amore che fa vivere Gesù, l'egoista o l'egoismo di uno che per salvare la carriera, la seggiola, eccetera, eccetera, non ha esitato a mandare a morte Dio. Quindi l'umanità migliore rappresentata da Maria e anche l'umanità peggiore, guarda caso quella di un politico, ma non c'è solo lui, ci sono anche i sommi sacerdoti, i laureati di Bibbia che sono dentro tra quelli che condannano a morte Gesù Cristo, e bisogna tenerlo presente. E diciamo subito senza mezzi termini, Gesù Cristo che è stato messo morto per i peccati di tutti, di fatto è stato preso e messo a morte da coloro che detenevano il potere civile e religioso. Attenti al potere perché è più facile che ammazzi Dio piuttosto che lo faccia vivere. Perché se lui è l'unico signore, io non sono più signore di niente e di nessuno, mi dà fastidio, lo tiro via, se no come faccio io a mettermi in mostra? Cristo è fastidioso per quelli che cercano il potere, dentro e fuori dalla Chiesa. Allora, Gesù Cristo patì, è stato un sadico che ha detto voglio soffrire, picchiatemi, scannatemi. No, no, non è uno che si è flagellato. Non è uno che ha fatto delle cose per soffrire, per dire guardate me, non ha fatto neanche il pugile per prendere botte. No, no, no. Gesù Cristo non ha cercato la croce, non ha torturato se stesso e quindi anche voi brava gente non cercate delle croci strampalate e non torturate voi stessi perché non c'è niente di cristiano in questi atteggiamenti. È vero, sì, che ha sudato sangue e ha gridato la sua paura di fronte alla morte e la morte come responsabile della salvezza di tutta l'umanità. Ecco allora, c'è la lettera agli ebrei che dice di Gesù Cristo, nei giorni della sua vita terrena, Cristo offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio Padre che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. A cosa serve la sofferenza? Perché Cristo non ha rifiutato la sofferenza? Perché la sofferenza, dice qui, insegna, ci fa imparare l'obbedienza. Diremo fra qualche riga, la sofferenza per noi come siamo messi al mondo d'oggi è indispensabile per crescere come persone, per venire fuori dal nostro bozzolo di bambini egoisti e molti che hanno 40-50 anni sono ancora bambini egoisti perché non vogliono affrontare la sofferenza dell'impegno, della fatica, del metter su famiglia piuttosto, o dell'impegno qualunque sia, ma di donarsi agli altri. Sono degli egoisti. Avete bisogno di consolazione in un momento tragico, andate da uno che ha sofferto molto, vi capisce. Non andate da chi non ha patito niente, perché è uno stupido che non capisce niente. La sofferenza serve, è la migliore medicina contro l'egoismo, contro la pigrizia, contro tutto quel modo di vivere una vita stagnante che non serve a nessuno. La sofferenza serve. Guardate anche, e non c'entra con la religione, questi grandi, chiamiamoli, della storia civile. Lo scalatore che vuole andare a 8.000 e tanti metri senza l'ossigeno, ma chi te lo fa fare? Ma siediti sulla poltrona, stai a vedere la partita. Ma chi ti manda lassù? Fa queste cose per superare se stesso, i suoi limiti, per essere di più, per diventare meglio. Non c'è progresso e crescita se non si affronta la sofferenza. Per salire bisogna fare la fatica di fare i gradini, in una parola. E la sofferenza serve a questo. Ecco allora, patì, Gesù Cristo patì. E forse questa è la risposta che Dio vuol dare al mistero della sofferenza nel quale incappiamo tutti. Ogni uomo cozza contro la sofferenza di vario genere. Epicuro, 300 anni prima di Cristo, dicendo che lui Dio non lo capiva, e diceva, ma insomma sto Dio, voi dite che c'è Dio. Vi faccio un ragionamento. Se c'è questo Dio, o Dio vuole sopprimere il male, la sofferenza e non può, e allora è impotente, cosa ce ne facciamo di un Dio che non può eliminare quello che a noi fa partire, per esempio la morte? Oppure non vuole e non può, e allora è niente, non è buono da niente. Oppure Dio può sopprimere il male e allora non vuole, e allora è maligno e cattivo. Chi di voi potendo sopprimere il male di un vostro figliolo dice glielo lascio apposta così ne godo? Dice, no, a mio figlio tiro via le malattie, il male, lo aggiusto, gli faccio le medicazioni del caso. O infine Dio può e vuole vincere il male. E allora dov'è questo Dio e da dove viene il male? Visto che il male c'è e Dio non lo si vede. Allora voi sapete che i filosofi cristiani, atei, devono pensare, filosofare, senza disprezzo per il pensiero umano, si intende. Di fronte alla sofferenza si possono prendere due atteggiamenti. O fare o filosofare. Gesù Cristo non si è seduto in cattedra dicendo dedico mezzo Vangelo a spiegarvi, allora la sofferenza esiste perché, per come, serve a questo, serve a quello. Avete trovato queste spiegazioni nel Vangelo? Io no. Non ha filosofato, ma ha fatto. Tutte le persone che soffrivano e che lui incontra vengono liberate dalla loro sofferenza. Guarisce i malati, risuscita i morti, predica a quelli che soffrono a causa dei prepotenti e di questi e di quegli altri. Bisogna amare, non mettere gli altri sotto i piedi, bisogna finirla con la violenza che fa soffrire tutti e che distrugge tutto. E l'incontro con il Vangelo credo che vi abbia insegnato che Gesù Cristo è per la non violenza, per l'amore a tutti i costi e sempre, non ha mai ammazzato nessuno, si è lasciato ammazzare dalla prepotenza degli altri, ma lui i sistemi della violenza e della cattiveria non li accetta, dice al cristiano, neanche voi dovete accettarli. Si è messo con tutto impegno a sconfiggere il male che c'è nel mondo. Difatti, se leggete bene il Vangelo, Cristo ha dato alla Chiesa il potere, certo, c'è una volta nel Vangelo, poi viene ripetuto comunque, una volta nel Vangelo e una volta in finale del Vangelo, sotto altre parole, che Gesù Cristo dà il potere. Ma quale potere? Vi do il potere di sconfiggere ogni sorta di male, di sconfiggere tutti gli spiriti malvagi, ossia ci ha dato il potere di sconfiggere il demonio, il male, la malattia, tutte queste cose. Questo è il potere che ci ha dato, non il potere di comandare sugli altri, quello non ce l'ha dato, il potere di sconfiggere il male. E, come vi ho già anticipato prima, in esame di coscienza finale dirà, voi venite in paradiso se avete sconfitto il male, se avete fatto di tutto per eliminare il male. C'era il male della fame e tu hai dato da mangiare, perché si fa così a sconfiggere il male. C'era il male della sete e tu mi hai dato da bere. C'è il male di non avere neanche uno straccio di vestito per andare in giro e tu mi hai dato. C'è il male del non avere una casa come rifugio e tu mi hai ospitato. C'è il male dell'ammalato e c'è il male del carcerato. Tu hai combattuto il male facendo del bene a queste persone. Tu invece hai lasciato che continuassero nel loro male e non hai fatto niente. Tu in paradiso e tu stai fuori. Questo testo, come vi ho detto, risale a 2000 anni prima di Cristo, lo si trova dentro negli scritti religiosi della civiltà egizia, viene riportato e aggiustato per dire qui a questo mondo siamo qui per fare il bene, il quale bene deve sconfiggere il male. Diciamo ancora una cosa breve. Voi sapete che vivere decentemente vuol dire amare, perché vivere è amare, fare il bene, non fare il male produce la morte e fa morire anche noi. Vivere è amare, e amare significa uscire da se stessi, ecco perché dice Dio è amore, perché esce da se stesso e dà la vita a un figlio che è uno distinto da sé. Un Dio persona sola non sarebbe amore e quindi non ci saremmo neanche qui a parlarne. Allora amare vuol dire uscire da se stesso per entrare in un altro, in un'altra. Entrare nei panni, mettersi nei panni dell'altro. L'abbiamo già detto qui parlando l'anno scorso. L'amore è mettersi nei panni dell'altro. E come dice il Vangelo, tutto quello che vorreste che gli altri facciano a voi, fatelo voi a loro, perché vi siete messi nei loro panni. Devi castigare tuo figlio, aspetta un momento, mettiti nei panni di tuo figlio, pensa come vorresti essere educato da tuo padre e poi comportati di seguito, ci azzecchi di sicuro. Ma se tuo figlio è un altro, se tuo figlio è cattivo e tu sei buono, e se, è sempre un macello. Per mettersi a contatto con gli altri bisogna immedesimarsi negli altri. Guardate, Dio è diventato noi, si è messo nei nostri panni, è diventato uomo e ci ha detto anche voi mettetevi nei miei panni, vi faccio diventare Dio. Io quando cerco di mettermi nei panni del Padre Eterno e di Gesù Cristo e vedo il mondo come va, soffro da bestia, dicendo, ma come soffrirà il Padre Eterno con miliardi di persone che si scannano, che si affamano, che si violentano? Come ci resti tu di fronte a dei figli che si accoltellano, che si ammazzano lì davanti ai tuoi occhi? Come ci sta il Padre Eterno? Gesù Cristo, vi ho salvati tutti. Come fa a salvare un'umanità ribalda di quel genere? Ecco allora che viene spontaneo l'apostolato. Bisogna andare a dire, ma la volete capire che il Padre Eterno non vuole che vi facciate del male, ma che voi vogliate del bene? Viene normale. Bene, allora qui, amare significa dimenticarsi per pensare all'altro, sacrificarsi per far star comodo l'altro, cancellarsi, negarsi, morire per l'altro. E Gesù Cristo è stato l'uomo tutto per gli altri. Anche quando all'inizio della Quaresima si legge le tentazioni di Gesù nel deserto, di che questo sasso diventi pane, c'ha tanti significati, non è il lavoro, ma c'è anche Dio, la provvidenza. Ma soprattutto lì ci sta sotto un fatto, Gesù Cristo dice no, io non faccio un miracolo per me, farò tanti miracoli per gli altri, per altruismo, ma per me miracoli non ne faccio perché sarei un egoista. Gli faceva comodo venire giù dalla croce, fare un miracolo, schiodarsi e poi scappare via. Dice no. Ecco allora, tiriamo verso la conclusione. L'imitazione di Cristo ha una bellissima frase. Senza dolore non si vive nell'amore. Amore e dolore sono come il dritto e il rovescio di una moneta. Amore e dolore. Perché per amare un altro io devo uscire da me stesso e uscire da me stesso mi costa. Amare un altro quando poi mi è antipatico mi costa, devo morire dentro, io quello lì lo ammazzerei, invece devo dire, io ti amo come ti ama Dio. Per uscire da noi stessi, diciamo pure dal nostro egoismo, dalla nostra cattiveria, facciamo una fatica boia, ma è indispensabile per poter amare gli altri, per essere a servizio degli altri. L'amore è questo, l'ha detto Gesù, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per le persone che uno ama, per i propri amici, è scritto qui, per le persone che lui ha amato, perché non l'ha mica data per gli amici, l'ha data per i nemici, per i peccatori. Dunque la sofferenza è il solo mezzo per la purificazione dal nostro egoismo. Dio muore per amore verso di noi e dice a noi, devi morire anche tu per amore verso gli altri. Ce lo ricorda San Giovanni nella sua lettera. Dio ha manifestato il suo amore perché ha mandato suo figlio a morire per noi peccatori. Allora, di conseguenza, anche noi dobbiamo morire per i fratelli. Equazione perfetta.